Il benvenuto dalla voce di Marco Gravelli, il nostro consueto appuntamento di Hard and Heavy per questo martedì, replicato il giovedì, prima parte dedicata alle novità interessanti, alcune anche italiane. La seconda parte, come annunciato ieri, con intervista che abbiamo effettuato la scorsa settimana in occasione del loro concerto milanese con gli Hardcore Superstar, esattamente con il vocalist, e sarà Max De Rio, fan della band, ad incontrare il cantante e a parlare del nuovo album e dei progetti futuri. Intanto noi, come al solito, salutiamo Mariposa Dischi Corso Lodi numero 1 qua a Milano, il nostro sponsor. Ringraziamo come sempre Simone, il nostro autore, che ha preparato la tracklist di questa sera, che ci permette di partire con un'interessante band che abbiamo presentato già nelle scorse settimane. Arrivano da Roma. Questo è il loro album d'esordio, By the Power of Thunder. Per questa formazione con line-up a 5 elementi, nella quale spicca la presenza del bravo cantante americano DC Cooper, attualmente nei Silent Force e già ex Royal Ant. Leader del gruppo è il chitarrista Marco, che ha creato la band nel 2003. È grazie a un demo di 5 tracce che ottengono un contratto con l'etichetta italiana Underground Symphony. Seguono diversi cambi di line-up, soprattutto con l'abbandono del cantante. Pertanto, convinti del valore delle loro canzoni, scelgono di contattare un cantante di fama internazionale ed arrivano a reclutare DC Cooper. Questo è il pezzo dal titolo Valhalla, Steel Seal. We'll be right back. fatto tutto italiano, questo degli Steel Seal, By the Power of Thunder. Il motivo si intitola Valhalla con la voce di DC Cooper. Continuiamo con Ted Nugent, il celebre chitarrista e cantante americano che ebbe un grande successo nel campo dell'hard rock alla fine degli anni 70. Non ha mai fermato la sua carriera solista, che è iniziata nel 1975. Il suo album più famoso, lo sapete, è anche il migliore, Cat Scratch Fever. Seguono poi un periodo con i Damn Yankees, con il quale ha inciso due ottimi album. A 5 anni di distanza dal precedente lavoro in studio, è uscito in questo periodo, stampato anche in Italia, dalla Edel Love Grenade, 13 tracce. Disponibile anche in limited edition con una copertina differente. Presente come special guest in tre canzoni il bassista Jack Blades dei Night Ranger. Oggi vi propongo il motivo dal titolo Stand, Ted Nugent. Well, welcome boys and girls. Welcome to Funk You. Here we go. Scatenato, sia nelle liriche sia nella velocità del brano. Ted Nugent da Love Grenade, non è Fuck You ma è Stand il titolo di questo brano. Grazie Ted. Album, come vi dicevo, già stampato anche in Italia. Italiana anche la prossima band ci porta in quella di Frosinone, esattamente nella cittadina di Cassino, da dove arrivano questi Blood in Tears. Gruppo di quattro elementi creati dal cantante e pianista Chris, propongono un gothic dark metal sinfonico. A lineup completata registrano un promo autoprodotto dal titolo After the End, rilasciato lo scorso anno che gli è valso un contratto con l'etichetta Aural Music, tramite la quale è uscito questo vero e proprio album d'esordio, Seed of an Ancient Pain. 10 brani, 3 dei quali risalgono al loro precedente demo, al loro promo, ma per l'occasione completamente risuonate. Per quanto riguarda il nome, è stato ideato dallo stesso Chris, dando una visione più sofferente alla figura di Dracula. Ecco perché Vlad in Tears. Il pezzo si intitola Freedom from God. Arriviamo anche per quest'oggi all'appuntamento consueto con le Metal News, come sempre preparate dal nostro Simone. Si parte dai Neverland, la project band creata un anno fa dal cantante greco Iris Mavraki e dai musicisti turchi dei Dream Tone, ha ottenuto un contratto con la AFM Records. Pubblicheranno il prossimo febbraio l'album d'esordio dal titolo Revesting Time. Presenti come special guest, i cantanti Hansi Krush dei Blind Guardian, Tom Engler degli Evergrey e Mike Baker degli Shadow Gallery. La band americana dei Great White suonerà in Italia per due date, 10 e 11 febbraio, rispettivamente a Piacenza e a Treviso, ancora da definire le location. Stratovarius, il bassista della band finlandese, pubblicherà un nuovo album solista dal titolo All Children Have Superpowers, data d'uscita prevista per il 19 di gennaio. In Chimera, poco più di due anni dal precedente lavoro, la project band del polistrumentista Daniele Liverani tornerà sul mercato col terzo album. Si intitolerà The Greatest Wonder e uscirà tramite Frontiers Record il 22 di febbraio. Line-up completata da Dario Ciccone alla batteria, Tommy Armolli alla chitarra e Dennis Ward dei Pink Cream 69 al basso e alla voce. E parliamo invece di questa anteprima che vi proponiamo anche questa sera. Ieri sera anteprima con Avantasia, questa sera anteprima con Aireon. Atteso il nuovo album, l'ottavo del progetto Aireon, del polistrumentista olandese Arjen Lucassen, noto anche per altri progetti come Star One, Ambion e Stream of Passion. A 3 anni e mezzo dal precedente The Human Equation, uscirà il 28 gennaio prossimo in Europa questo doppio CD dal titolo 01011001, che si compone di 15 tracce. È un doppio CD. Per saperne di più, trasmetteremo in gennaio l'intervista che ho personalmente registrato, l'incontro che ho avuto pochi giorni fa con Luke Hassan stesso. Numerosi sono gli special guest come John Land, Hansi Kurush dei Blind Guardian, Daniel Gildenlow dei Pain of Salvation, Bob Catley dei Magnum, Thomas Eglund degli Evergrey, Jonas Resk dei Catatonia, Anneke, ex Gathrin, Floor Jensen degli After Forever, Simone Simmons degli Epica, Stevie Lee dei Gotthard e Ty Tabor dei King's X e molti altri. E in anteprima andiamo anche a proporvi proprio un estratto da questo suo nuovo album. È il pezzo, ne ascolteremo una parte, vuoi perché è un'anteprima, vuoi perché dura 10 minuti, è il pezzo che apre l'album, si intitola Age of Shadow, dal CD 1, il nuovo degli Irion. but a passageway. The beginning of the end. An end that never. But a curve in space. Oh, we are forever. Eternal prisoners in time. Oh, we are forever. Un album molto particolare, innanzitutto è un doppio CD, già ve lo preannuncio, è da ascoltare decisamente più di 2-3 volte per poter entrare ben bene sia nelle liriche, nei testi quindi e nei contenuti di questo lavoro e soprattutto anche per poter ben ascoltare, apprezzare la musica. Aerion con il nuovo album 01011001 in uscita, abbiamo detto, alla fine del mese di gennaio. Questo era Age of Shadows, una parte di questa lunghissima suite. E chiudiamo la nostra prima parte di Arden Devi di questa sera e poi con intervista insieme a Max De Rio con il cantante degli Hardcore Superstar con i Soul Doctor. Hard rock band tedesca composta da 4 elementi, soprattutto troviamo il bravissimo cantante Tommy Hart dei Fair Warning, un progetto che nasce nel 99, creato dallo stesso Tommy e dal chitarrista Chris Lynne, amici di vecchia data che avevano lavorato già insieme in un'altra band. L'esordio arriva nel 2001 con l'album omonimo, seguito da System Go Wild, al quale sono seguiti tour europei con Alice Cooper, Ronnie James Dio, Kingdom Come. In occasione del terzo album del 2005 ci sono stati diversi cambi. Questo è il quarto, si intitola Blood, Runes Cold e presenta 10 tracce. Suoneranno dal vivo il prossimo gennaio, il 17 a Milano, il 18 a Verona, il 19 a Prato, il 20 a Roma. Li ascoltiamo con il brano che apre l'album, si intitola Blood Runs Cold. Io mi congedo da voi per questa prima parte di Arden Devi e tra poco nella seconda Hardcore Superstar insieme a Max De Rio. Ciao ciao. Gonna get their way. Feeling